Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Delle numerose parole come pizza, spaghetti, opera e disastro che l'italiano ha regalato a molte altre lingue in giro per il mondo. Parte da qui John Dickey, parte da questa considerazione in apertura del suo libro Cosa Nostra, per raccontare la storia della mafia siciliana al resto del mondo, a tutti quelli cioè che la mafia l'hanno conosciuta innanzitutto attraverso Il Padrino. E proprio per questo, e tenendo conto di questo, potremmo dire che il suo saggio, bestseller internazionale tradotto in Italia dalla Terza, sia il libro che davvero ha spiegato la mafia siciliana al di fuori dell'Italia. In questa puntata di Storiacce vi portiamo in un'altra piazza del Festival Trame di Lamezia, dove siamo stati a fine giugno per l'incontro con John Dickey, appunto, professore di studi italiani all'University College di Londra, con cui abbiamo chiacchierato insieme al collega e scrittore siciliano Gaetano Savatteri. Le difficoltà sono state tantissime, a partire dal fatto che la conoscenza della mafia era basata quasi esclusivamente sul Padrino, sul film Il Padrino. Quindi dovevo partire da zero, spiegando, non prendendo per scontato nemmeno chi erano Falcone e Borsellino, per esempio, perché chiedevo ad amici se conoscevano i nomi di Falcone e Borsellino. Qualcuno vagamente si ricordava del 92, delle stragi, quindi la sfida era grossa. Ho cercato di spiegare, di esemplificare attraverso soprattutto singole biografie. Se vogliamo, per fare concorrenza al Padrino. Dovendo confrontarsi con un mercato estero che vive con una proiezione diversa, con le immagini del Padrino, con certi luoghi comuni, lui giustamente ha cercato di ricostruire nel suo libro anche quali sono stati gli errori o le ricostruzioni cinematografiche inesatte rispetto ai documenti. Quello che vorrei chiedere ad entrambi, il rapporto con questa proiezione cinematografica, televisiva, da fiction direi, no? Ho preso in prestito alcuni arnesi, diciamo da romanziere, perché questo è il punto forte di un film come Il Padrino, che rende visibile, per questo motivo indimenticabile. Un piccolo esempio, il caso del barone Torisi Colonna, nel 1864, che è un politico importante, un eroe del Risorgimento, un imprenditore nel settore degli agrumi, che nel 1864 scrive un pamphlet, un libricino sul problema dell'ordine pubblico in Sicilia, e scrive una descrizione della mafia, e lui la descrive come la setta, perché setta è la parola che si usava per descrivere la massoneria. Io ho imparato poi in seguito che un figlio bastardo di Torisi Colonna viene adottato da Antonino Giammona, il più grosso capomafia di Palermo all'epoca. Quindi un rapporto strettissimo tra questo scienziato della mafia e la mafia stessa. Lui appartiene a quella grande tradizione di storici anglosassoni che non hanno paura di comunicare con un pubblico che non è quello degli addetti ai lavori. Può stupire perché questo libro, che raccontava cose che già studiosi, giornalisti italiani avevano scritto, ha questo successo. Perché per la prima volta John Dickey usa il sistema, la grande tradizione anglosassone, di la storia come racconto. La storia è un racconto. Tu mi parlavi, voglio dire, poco fa dell'immaginario, io ti rispondo brevemente. La mafia è una delle poche organizzazioni criminali che è riuscita, più o meno indirettamente, a costruire una grande mitologia di se stessa. Però a me incuriosiva, Gaetano, anche il tuo sguardo di siciliano rispetto alla riduzione cinematografica e televisiva della mafia. Innanzitutto i siciliani sono abituati a vivere in luoghi letterari, cioè tu pensi ci sono gli abitanti di Porto Empedocle che si sono convinti di vivere a Bigata, Io vengo da un paese che si chiama Regalmuto, a un certo punto molti sono convinti di vivere a Regalpetra perché già ci parlo delle parrocchie a Regalpetra. Il vedersi allo specchio, il riflettersi specularmente è molto forte. Rispetto alla fiction sulla mafia, io ho solo una perplessità, che mentre nel Padrino stai dentro una lotta dove sono tutti cattivi, dentro la fiction televisiva c'è sempre il problema che tu ci devi mettere il buono. Sono d'accordo, assolutamente, però bisogna ricordare che la storia della mafia stessa ha delle storie bellissime, di una tragicità da tutte le parti. Sto pensando al mafioso Vitale, che un po' ha dato uno squarcio ai traumi interni a quel mondo. Proprio negli anni 60 dell'Ottocento, una mafia siciliana che usava lo strumento dello stupro, il ratto, consapevolmente come tecnica di ascesa sociale. Tu stupravi, rapivi la figlia del proprietario terriero per costringere, anche attraverso altri mezzi, a un matrimonio, sposavi un patrimonio. Per gli aspetti, diciamo, sentimentali, familiari del mondo mafioso, come per tutti gli altri aspetti, come diceva proprio adesso Caselli, abbiamo bisogno della testimonianza interna. E queste testimonianze interne per gran parte della storia della mafia non ci sono. Proprio in questi giorni è uscito il nuovo libro di John Dickey in Gran Bretagna, che parla della 'Ndrangheta. E sulle origini della 'Ndrangheta, lui dalle sue ricerche storiche in qualche modo è venuto nella convinzione che la 'Ndrangheta ha un'origine precisa. Il libro è una storia parallela delle tre maggiori organizzazioni. È un tentativo, e non sono il primo a farlo, a fare questa storia comparata, a capire attraverso le differenze tra le tre maggiori organizzazioni criminali. A me pare che le origini della 'Ndrangheta succedano più o meno in questo modo, che prima degli anni 80 dell'Ottocento non c'è il controllo del territorio, c'è un malaffare, una violenza diffusissima all'interno della classe dirigente calabrese, giudici che fanno ammazzare persone da altre famiglie, la legge non esiste. Cosa accade? Negli anni 80 c'è un'esplosione di attività criminale. Questa organizzazione criminale esce dal sistema carcerario. L'Ndrangheta, come oggi, è un museo vivente delle tradizioni, delle camorre carcerarie dell'Ottocento. La struttura è quella, società maggiore, società minore, il lessico è lo stesso, perché bisogna sapere che nell'Ottocento il sistema carcerario attraverso tutta l'Italia meridionale, prima e dopo l'unità, era controllato dall'interno da organizzazioni criminali, da camorre. Era possibile da un carcere sull'isola di Favignana ordinare un omicidio in un carcere di Napoli o di Catanzaro attraverso questa ragnatela di contatti fra prigionieri. E in alcuni luoghi queste organizzazioni riescono ad uscire, ad affermarsi sul territorio. Che cos'è gli dà la possibilità di stabilire il controllo del territorio anche fuori? Nel caso della camorra e della mafia siciliana è la violenza della rivoluzione nazionale, violenza sia da parte dello Stato borbonico che dalla parte dei rivoluzionari, dei patrioti. Hanno bisogno di un braccio armato, tutte e due. In Calabria succede negli anni 80 dell'Ottocento, c'è una biografia addirittura di un prigioniero, di un camorrista calabrese, c'è una crisi agraria fortissima, ma c'è anche maggiore richiesta di violenza da parte della politica. E con incredibile velocità, nonostante una repressione abbastanza forte, dei maxi processi che a Palermo sarebbero stati impensabili, perché a quell'epoca l'Ndrangheta non aveva protezioni politiche, sì, ma non ai livelli altissimi, proprio a livelli di Consiglio dei Ministri che aveva la mafia siciliana. Però parte da lì, e la politica, secondo me, è che il passaporto della criminalità organizzata dal carcere, dal sistema carcerario in Calabria, al controllo del territorio. Gli affari non si possono fare senza un accordo preventivo con la criminalità organizzata. Se questo era il rapporto nel momento, diciamo, iniziale, il tuo studio che cosa ti dice? Con il passar del tempo, con il passar degli anni, l'Andrangheta ha recuperato terreno anche su questo fronte e il rapporto con la politica si è mantenuto costante? Sì, cioè, ovviamente è cresciuto col tempo. Io devo dire che il libro arriva soltanto alla fine del fascismo, quindi per il periodo attuale diciamo che è ipotizzabile. Mi incuriosiva quello che John prima diceva sulla sua difficoltà di raccontare i protagonisti della mafia all'estero, sulla necessità di raccontare anche chi fossero Falcone e Borsellino, che cosa sia stato l'attentatuni, che cosa sia stata la strage di Via D'Amelio. Tutte categorie che, diciamo, per noi, che per un'Italia che da decenni convive con la conoscenza della mafia più o meno profonda, riusciamo ad ipotizzare, ma per chi come te si è cimentato con l'ardua impresa di raccontare tutto questo al di fuori dell'Italia, ecco, com'è andata? Racconto un aneddoto per far capire come la complessità. Un paio d'anni fa i carabinieri hanno fatto un'irruzione nella villa di un boss della mafia russa, una villa a Roma, fuori Roma, e come fanno ormai sempre hanno fatto rilasciato il filmato. Villa, cioè ricchissima, questi mobili antichi, dorati e così via. Arrivano alla fine alle cose che hanno raccolto nel corso dell'operazione, quindi non so, moneta estera, pistole e così via. Poi c'è anche il DVD del capo dei capi e la copia del mio libro in traduzione russa. Quindi si vede che anche il tentativo, diciamo, più onesto di raccontare la mafia rischia di diventare un manuale per altri motivi, vuole capire la mafia. Ma per tornare sul discorso di Falcone e Borsellino, io ho iniziato il libro con la strage di Capaci, appunto, come, se posso dire, punto di non ritorno, spero, questo è augurabile, ancora la storia può anche, soprattutto in Sicilia, può anche tornare indietro, non è detto che avanza necessariamente. Se ci sono momenti che in un libro che necessariamente spazia tra la storia di diverse persone, quindi tiene unito il libro, la storia della mafia, sono i momenti in cui ripetutamente dal 1876 in poi viene a galla la prova chiave dell'esistenza della mafia, della natura stessa della mafia, cioè la scoperta del rito d'iniziazione della mafia, la cosiddetta punciuta. Se il mafioso, per diventare mafioso, per far parte di questa setta, devi subire un rito di iniziazione, vuol dire che la mafia rispetto alla società siciliana è altro. Il mafioso sa perfettamente di essere un mafioso, è un'organizzazione consapevole di sé. Ma è la storia di questo segreto nascosto agli occhi di tutti. Qualcuno a volte mi ha chiesto: ma che la mafia si capisce meglio da fuori? No, questa è una cazzata, scusatemi l'espressione, è una cazzata. La mafia si capisce meglio da chi, cioè i Falcone, il Borsellino, prima di tutti, capiva proprio dall'interno, da siciliani. Però se c'è una cosa che io posso portare da fuori è proprio un'incredulità. Ancora oggi rimango allibito del fatto che queste cose possono andare avanti così a lungo. Direi che in questa parola, quella dell'incredulità, c'è una spiegazione a tanti dilemmi che forse non sono soltanto, diciamo, di chi sta fuori dall'Italia. La mafia è modernissima, la mafia fa parte integrante della modernità. Io volevo chiedere a John se questa trasformazione le ha fatto perdere al di fuori dell'Italia un appeal di studio, visto che tu dici che a un certo punto in poi sono stati sempre di meno le persone che hanno studiato la mafia e se poi con la crescita della conoscenza anche di quest'altra malavita organizzata calabrese, se tu pensi ritrovi nella sua, nelle parti storiche, nelle sue connotati, degli nuce, degli aspetti che la possono rendere ugualmente di interesse anche di riproduzione cinematografica all'estero come c'è stata per la mafia. Gli inglesi fanno molto fatica a pronunciare, già a pronunciare la parola 'ndrangheta. Spero di poter fare la mafia calabrese quello che sono riuscito a fare per la mafia siciliana con Cosa Nostra. Per scaricare questa, come tutte le storiacce, www.radio24.it, sezione podcast, oppure direttamente su iTunes. Storiacce è anche un blog e una pagina Facebook. Vi aspetto. Ciao a tutti, a sabato.